che ho viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Qual è il senso di delocalizzare la radio quando la radio è già ovunque? È importante perché la radio in sé ha un software, un'anima, è la persona che parla al di là del microfono, che è un essere fatto, per quanto fallace, fuggevole e caduco, di carne ed ossa, e quindi spostare questo essere e spostare il suo angolo visivo, il suo punto di vista, e in questo momento il mio è meraviglioso. Pensate, sto in una piazza con il grande camion della spazzatura davanti, che sta raccogliendo il pattume e triturarlo davanti ai miei occhi. Quindi come potrei raccontarvi questo meraviglioso colpo d'occhio, questa fantastica impressione? Stamattina sto facendo radio all'aperto perché mi trovo a Riva del Garda, alla grande kermesse radiofonica Radio Incontri, dove ci sono tutte le radio del mondo e quindi ci siamo anche noi. Potrei dirvi il retroscena, potrei dirvi ciò che è accaduto, ciò che c'è stato a monte di questa mia presenza in questa fantastica piazza delle erbe, piazza desolata con due giovani serial killer gemelli, con alcune signore e un paio di pensionati, ma la gente verrà, accorrerà, adesso sta arrivando anche una ragazza messicana. Date un attimo tregua al delirio che vi coglie dal vostro apparecchio radiofonico e collaborate a questa mia fantastica mattina. Questa mattina parlerò della radio, cioè parlerò di ciò attraverso cui parlo tutti i giorni da una ventina d'anni circa. Voi direte, a noi cosa ci importa? Beh, voi siete una parte fondamentale di questo rapporto fra amore e odio, che permette che alcune persone passino gran parte della loro vita all'ascolto di una voce che viene da un luogo non ben definito, che questa mattina descrivo in tutte le sue fattispecie. C'è una sorta di sinestesia. Vi darò i profumi, gli odori, i sapori, perché i rumori già li state sentendo. Voi pensate, gli avanzi delle bottiglie di vetro dei tedeschi stanotte sono avvinazzati, stanno lì, stanno scomparendo, e mentre scompaiono le mie parole e vengono rapite da quello che è il vostro fantastico e caldo benvenuto. Senza la lettera di raccomandazione di un tuo finto zio vescovo, nel 1983 in Rai non ci saresti forse mai arrivato a lavorare, giusto? Mi sembra corretto quello che hai fatto? Ma cosa vuol dire 2.0? Tanto per fare i ganzi, i figli. Vuol dire un c***o. Ma quanto ti piace la tua voce, Nicoletti, Ma vai in galera, te e Melog! Nicoletti, caro, ti seguivo e ti seguo, ma anni fa eri diverso, adesso sei diventato un'altra cosa. Ti sei perso, ritorna. Ti definirei propriamente un parassita della cultura. Sei il solito buzzurro, cafone, non ti si può dire un c***o, ma vai a fan. Io devo dire che traggo grande motivo d'orgoglio e grande gioia da questi abbracci emotivi, perché una delle ragioni fondamentali per cui chi fa radio in realtà si mantiene eternamente giovane è che la sua caduca e fallace fattispecie fisica viene assorbita dal senso della sua voce. Per questo c'è questa profonda, radicale, comprensibile, che umanamente, devo dire, mi provoca una grande compassione, invidia, per una persona che riesce a essere trasformato in qualcosa che non è suscettibile del logorio del tempo. Questo un po' è il sortilegio della radio. A me piace andare queste manifestazioni in cui si commemora la radio, perché è giusto che qualcosa che è morto, che è scomparso, che ha già abbandonato il suo cadavere come una farfalla abbandona la crisalide, abbia ogni tanto dei momenti di pensiero. La mia profonda e immutabile riflessione è che il fantastico senso della radio è che la radio sia morta. È morta da vari anni la radio, e questa è una meraviglia, perché dopo la sua morte è potuta risorgere, è risorta in un'infinità, in mille rivoli. La radio si sente ovunque, in questo momento si sente da una piazza di una mena cittadina, luogo di villeggiatura e di amori clandestini e fugaci, e allo stesso tempo si sente attraverso gli apparecchi che in molte delle case dei nostri ascoltatori sono lì, immarcescibili negli anni, con il segno del rossetto sulla stessa frequenza, che spero sia cambiata negli ultimi 5 anni, perché, come diceva giustamente quell'ascoltatore, me pagai molto caro l'aver presentato una finta raccomandazione di un esistente zio arcivescovo una 25ina di anni fa circa, che fu l'inizio della mia avventura radiofonica. Sono un ex ufficiale degli Alpini, e nella storia degli Alpini c'è molto più sangue che non alcol. il mio barbiere a sentirsi nominare così si arrabbierebbe. Lui è in bottega da 62 anni e lui ci tiene a dire che è un acconciatore. Non è stata molto carina la battuta delle parrucchiere di paese e della serrettiera. Allora, dottor Nicoletti, io penso che sia opportuno che lei non definisca mai più una donna non sposata col termine zitella. Una donna adulta la si deve definire semplicemente signora. Non sono una signora, una dottora. 800 24 00 24, perché se mi date una manina questa mattina magari riesco a risparmiare un po' le mie corde vocali lungamente provate dall'umido del lago che mi accolse questa notte alle 4 quando mi stesi ubriaco sulla sponda guardando un motoscafo. Ma l'unica cosa apprezzabile a quell'ora era il vino delle cantine che ancora erano aperte, perché per il resto dormivano tutti. È meraviglioso vedere una città addormentata, questo fantastico mortorio di anziani che suscita dei moti poetici che assomigliano moltissimo a quelli che suscita un apparecchio radiofonico. Vi immaginate cosa possa accadere al di là di quello che voi ascoltate, la voce che ascoltate? Qual è il senso della voce radiofonica che fa parte delle vostre ritualità quotidiane? Ognuno di noi che fa radio, dei colleghi si alterneranno in questa piazza e a questo microfono, molto più fortunati di me, perché io questa mattina svolgo un po' la funzione di quello che negli allevamenti di puro sangue è l'asino ruffiano, l'asino scaldatore. Quando la cavalla è in calore gli si porta un asinello vicino che la prepara un po' e poi arriva al puro sangue, compie l'accoppiamento e dà seguito appunto alla progenie dei cavalli di razza. Questa mattina, essendo il primo che parla da questa piazza, sto scaldando la piazza, cerco di stanare dalle finestre, vedo un signore affacciato che sta cambiando le tendine in canottiera in piedi su una sedia, cerco di dare modo alle persone di uscire in piazza e guardare la radio. In realtà la radio, come vi dicevo prima, ecco, c'è una telefonata, per fortuna, prendo fiato. Elisa da Palermo, buongiorno. Elsa, non Elisa. Ho gli occhiali scuri per non far vedere le occhiaie, no, al sole in faccia. Carità. Allora, io volevo dirle questo, io ho 77 anni. Bene, e viva praticamente la giornata. Ascolto la radio da quando ne avevo 3, credo. Vabbè, ascoltava lei, quando era bambina. Sì, da quando era bambina per me è sempre stata la mia compagna fedele in tutti i momenti. Anche che non c'era altro a quei tempi oltre la radio. Sì, va bene, però c'era, poi c'era il fatto di Radio Londra, la cosa segreta, già mi incuriosiva e mi solleticava questa cosa che con papà sentivamo questa radio. Così sente ancora solletico quando ascolta la radio, signora? Come? Sente ancora solletico quando ascolta la radio? Beh, questo è piacevole, è uno stimolatore elettronico. Quando ero ragazzina, tipo 14 anni, avevo una compagna di scuola con un fratello che studiava all'industriale. Allora non c'erano queste radioline portatili. Erano gli anni del boom, penso, no? Erano i primi anni 50, più o meno? No, era prima del 50, 47, 48, insomma. Ancora, così, no? Appena finita la guerra. Mi sono fatta costruire una radio a galena. Ma pensi un po'. Lei sa la radio a galena, no? No, a me piace, perché quando si parla di radio vengono sempre fuori questa ammuffita idea di ciò che era la radio una volta. La meraviglia della radio è proprio questa, che in realtà quando si parla di radio si parla di cadavere, perché vede, anche il logo che rappresenta questa meravigliosa manifestazione è un microfono d'antan, un microfono antico. La radio ha bisogno di rappresentarsi in qualcosa che dia modo di ricordare la sua fantastica epoca d'oro. È come una bella donna che tiene i ritratti di quando era giovane e in realtà nessuno vorrebbe vederla nella sua epoca della decadenza. La radio ha fatto questo passo in avanti che ancora nessun altro strumento di comunicazione, macchina fantastica per mettere gli uomini in relazione tra di loro, ha fatto. Ha avuto il coraggio di morire. La radio viene soltanto rappresentata nelle sue raffigurazioni estetiche del passato, perché oggi è rappresentabile. Lei come descriverebbe la radio? Attraverso cosa mi ascolta? Lei avrà ancora la sua vecchia radio a valvole probabilmente, ma no, normalmente no, la maggior no, parte no, delle persone no, mi ascolta in qualcosa. Purtroppo non ce l'ho più, ho una normale radiolina portatile con i canali già preselezionati e io naturalmente mi accendo i preferiti, tra i quali Radio 24 sicuramente. Beh, signora, io la seguo perché sennò diamo un tono troppo nostalgico. Io vorrei fuggire da questa condanna di parlare sempre della radio del passato, la radio come strumento di compagnia. Io sono stato allevato dalla radio quando era la grande accompagnatrice verso la morte dei malati. Le radio sentivano negli ospedali. La sera c'era questa sorta di atmosfera in cui passava la suora, il prete con l'estrema unzione, l'infermiera con il catetere, e si ascoltava sorella radio. Ecco, io vorrei scappare perché per me la radio è uno strumento di estrema e immarcescibile giovinezza. La radio è qualcosa che mi permetterà, finché ancora avrò voce, di rappresentare ciò che non c'è, come dare colore a questa piazza che sta lentamente riempendo, ma vedo che alcuni signori si allontanano, quindi forse ho detto qualcosa che non dovevo dire. Ciao Gianluca, senti, mi puoi passare la questura per cortesia? Ah, sei impegnato? Va bene, ti saluto. Ciao, grazie. Ho precisato a Radio Radicale che io vado con le donne e non vado con i trans, tutto qua. Sai, una cosa ti devo dire, io ingoiai sangue ed allora sono diventato vampiro, pertanto ti canto una canzone. Punto Freud, alzati Italia, simile a Walker. Spero che me lo... E radio 24 ore, sole 24 ore, si accontentino che metà della giornata del sole. 800240024, stamattina stiamo passando in impietosa rassegna quelle che sono le categorie degli esseri umani che danno linfa, alimento e ancora permettono l'esistenza alla radio. Non sono tutti, in realtà la radio è molto ascoltata da persone che però essendo e collocandosi nella fascia di normodotati di intelletto e di capacità di discernimento non telefonano alla radio. Chi chiama la radio? I pazzi telefonano alla radio. Io ho una segreteria telefonica che in realtà ogni mattina mi dà una profonda sensazione di ciò che siano le variegate possibilità di articolazione della mente umana. Io ho un grosso difetto anche nella vita concreta e reale e per questo in realtà quando mi trovo in luoghi affollati chi mi sta accanto ha sempre un certo senso di paura. Ho la capacità di essere catalizzatore dei matti. Se c'è un pazzo nel giro di un chilometro, subito mi guarda, mi viene vicino, comincia a urlare, a inveire e via dicendo. Non so, troverà una sorta di affinità. Questo accade anche in uno dei canali aperti, che è la segreteria telefonica della radio, e che ha questa meravigliosa capacità di calamitare la follia. Io sono molto appassionato di follia, sono un profondo cultore, sono uno studioso della follia. Amo la follia perché è il colore dell'esistenza. Odio tutto ciò che è raziocinio, tutto ciò che è regola, tutto ciò che mi rappresenta un ordine costituito delle idee. Io questa mattina il primo gesto che ho fatto quando sono arrivato in questa piazza che era deserta, vuota, c'era soltanto l'avanzo del metronotte che aveva dormito qui tutta la notte, ho sollevato Giusy. Giusy è la tenutaria di un negozio di mutande che sta alla mia sinistra, adesso sta pulendo con la sua palettina la vetrina, l'ho presa e l'ho sollevata. Ho importato il sollievo del sollevar donne anche qui a Riva del Garda e probabilmente creò una sorta di catena imitativa di questo gesto, che in sé folle, lo trovo molto radiofonico. La radio è la rottura della razionalità. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco. Gianluca. Eccomi. Ti ho chiamato perché da Siena, vorrei esprimerti la mia totale invidia nei tuoi confronti, perché poter parlare ora di ciò che si vuole alla radio tutti i giorni non ha valore più di qualsiasi organo dirigente di presidente del consiglio. Dentro vedo che vuoi la tua voce è interrotta dall'emozione o è interrotta dalla linea caduca? Ti sento a tratti. Mi senti? Adesso bene, sì. Mi senti? Sì, ti sento. Dicevi che provi una profonda invidia perché posso dire quello che voglio. Niente. Purtroppo si è suicidato. A volte accade che alcuni momenti fallaci della linea telefonica non ci diano possibilità di percepire a fondo l'ascoltatore. Però l'ascoltatore ha espresso un concetto che va pari passo con i messaggi di odio che avete sentito all'inizio. Io ho fatto dell'odio degli ascoltatori una mia bandiera. È una grande paraculaggine in realtà. io, per la mia esperienza la maggior parte dei colleghi tagliano, censurano, levano, tolgono tutto ciò che è il dissenso. Rappresentare gloriosamente il dissenso è un'operazione che soltanto alla radio può essere fatto. Sarebbe impossibile in televisione, il dissenso in televisione fa paura, la televisione infatti è un medium che lavora sulla reiterazione dei modelli di successo. Ciò che funziona in televisione, ciò che perlomeno fa ascolto, ciò che dà un brivido al catetere del pensionato, che è l'elemento medio del campione Auditel, viene ripetuto all'infinito. La radio può permettersi delle folli digressioni, può permettersi delle uscite di campo. Carlos da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Oh, finalmente qualcuno vicino anche geograficamente al luogo in cui ci produciamo. Beh, io sono colombiano, però lo ascolto da un anno. Ma se vuoi c'è una ragazza messicana qua, te la chiamo, così parlate un po' fra voi. Non c'entra niente, ma così è una cialtronata tanto per riempire lo spazio. Sì, mi fa piacere perché, guarda, lo ascolto sempre quando faccio il pranzo, perché faccio il cuoco. Quindi tu sei dovuto fuggire dai narcos, sei rifugiato a Vicenza e fai passare un periodo di tranquillità. Esatto, sì, ecco. Esatto. Allora, quindi la tua identità segreta cos'è? Fai il cuoco a Vicenza? No, è quella. Ah, spacciatore, va bene. Sì, e quindi? Volevo dirle che lo ascolto sempre perché mi piace che sono un ascoltatore di tutta la vita della radio, da un anno che lo ascolto, e mi fa piacere che sento in lei e nel programma che, diciamo, le cose si dicono come sono, la realtà della vita, della situazione, non c'è niente di preparato. Allora, io non vorrei deluderla, io non dico mai le cose come sono, vado totalmente a fantasia. E uno dei miei impegni maggiori è artefare la realtà, cioè quello che dico io non è esattamente quello che è realmente, perché fare realismo sarebbero capaci tutti, a portare dei germi di contraffazione del reale, che trovo molto più interessante che il racconto del reale, è un esercizio che impegna un po'. Paola, buongiorno. Buongiorno. Paola da Crema. Da Crema, sì. Sono in viaggio, a dir la verità. Io ti ascolto da non molto tempo, però mi piace tantissimo, nel senso che davvero io ho una passione per te. Mi piace che tu esponga anche il tuo dissenso, io invece mi sono innamorata della tua voce, del tuo modo di parlare, sì, del tuo linguaggio, quindi mi seguirai subito. Certo, infatti ti seguo perché odio che si facciano telefonate esprimendo il consenso, che non ha nessun senso, sembra un automarketer, mi sono preparato, quindi non mi dà nemmeno vantaggio, quindi sono costretto a segarti e prendo l'occasione per passare la linea alle informazioni dalla borsa, ci sentiamo tra un istante. Zero zero ventiquattro, riprendo il mio parlare rabondo a Piazza delle Erbe a Riva del Garda in occasione di Radio Incontri, la grande festa, il grande raduno del fiorfiore della radiofonia nazionale. Infatti siamo soli. Questa mattina stiamo analizzando quello che è il rapporto fra apparecchio radiofonico inesistente, morto, non c'è più. La radio è meravigliosamente risorta nella pura essenza della voce di chi parla, nel suono, nel rumore, nelle pause, nei silenzi e nell'interruzione che dà ritmo al quotidiano di chi ascolta e partecipa. È un grande strumento di partecipazione la radio. Dovrei fare la solita raccontino storico su il canale del pubblico aperto la prima volta attraverso la radio, ma è vero, se ci pensate, è qualcosa di unico e fantastico nella percezione di chi ha seguito anagraficamente, storicamente, pure dire, della storia della radio, il fatto che a un certo punto si potesse da casa entrare nel grande spettacolo della trasmissione radiofonica. Rappresentava il tempo in cui ciò accadde, che erano i primi anni 70, fine anni 60 almeno in Italia, qualcosa di unico. La radio rappresentava quello che oggi potrebbe rappresentare la televisione in epoca pre-reality show, quindi la televisione 10 anni fa, una sorta di angolino di paradiso chiuso in cui soltanto i grandi dei che avevano il possesso di quel territorio potevano prodursi, e gli altri erano tutti spettatori, guardavano, osservavano, erano raccontati, erano osservati, talvolta venivano chiamati appunto come casi umani, come rappresentativi di categorie dell'abiezione o della meraviglia, e partecipavano allo spettacolo, ma degli eletti, erano come esseri umani baciati da un raggio di divinità e portati un attimo nell'Olimpo. Poi a un certo punto la radio ha cominciato a aprire attraverso il telefono una sorta di canale di comunicazione, chissà dall'altra parte poteva entrare, faceva parte del grande spettacolo. Gli odiatori, i folli, i pazzi, i lodatori e tutte le persone che ho classificato questa mattina in categorie fanno parte del grande spettacolo della radio, è la carne viva della rappresentazione del mondo che si fa attraverso la radio. Volevo sapere perché è una vita che sogno solo in bianco e nero? Dunque, il mio sogno ricorrente è di prendere l'ascensore, arrivare al mio piano, aprire la porta e trovarmi l'entrata senza pavimento. Il mio sogno ricorrente: sono sdraiata a letto, sento che si avvicina una persona, si sdraia, mi abbraccia da dietro, io sono un po' rannicchiata, mi accarezza e mi provoca un orgasmo meraviglioso. Mi trovo sempre al buio e cerco la luce e mi dispero perché mi trovo in un corridoio buio, trovo anche l'interruttore per accendere e manca la lampada. Io sogno molto spesso persone che conosco che stanno male, questo e quello. Sogno che la mia vita precedente è stata solo un incubo, in realtà sono una persona ricca, c'è una cameriera che mi apre le finestre su un bellissimo giardino e poi niente, poi mi sveglio. Potrei dirvi perché a me piace la radio, perché io al compiere di 50 anni ebbi un momento di totale travolgimento della mia esistenza e capii che l'impudicizia era la chiave della felicità. La radio è il luogo dell'impudicizia, impudicizia in senso più lato, più vago, non pensate che sia semplicemente riferito alle proprie misere abitudini sessuali, impudicizia non significa avere il coraggio di presentare al mondo la parte più nascosta di se stessi. E la radio in questo è meraviglioso, ti ho ascoltato, queste sono telefonate prese da vari argomenti di trasmissione che soltanto la radio potrebbero essere trattati. Parlare del proprio sogno, parlare di ciò che si è visto quando si era soli con se stessi. Raccontare un sogno a un'altra persona già significa rompere una sorta di vincolo che si ha con se stessi. Si teme di passare per matti, per visionari, si teme di rivelare aspetti di se stessi che non vorremmo che fossero palesi a tutti. Queste persone raccontavano con grande discrezione, con grande devozione, ma anche con grande senso esplicito i loro sogni più riposti, più nascosti. La tranquilla signora che spolvera i mobili mentre il marito è con la borsa della spesa al mercato a comprarsi i sedani e i carciofi, racconta il sogno di essere abbracciata con un altro essere umano, una sorta forse di adulterio allucinato ma è consumato, ma raccontato alla radio, depositato in una sorta di territorio comune di condivisione degli aspetti onirici. Vediamo un po', l'ascoltatore che è caduto prima, che mi invidiava, l'abbiamo recuperato, Francesco da Siena. Ciao. Ecco Francesco, ecco sei ritornato, Gianluca, ecco, finisci il tuo discorso. Perché provo a rifare il concetto di prima, io ti invito da morire, non in quanto persona perché non ti conosco, però in quanto ruolo che riceve la radio, cioè avere la possibilità di un'ora di libero pensiero, di poter raccontare tutto. Te sei una persona che se vede uno schiaffo alla fermata dell'autobus ci fai sopra una trasmissione, cioè questa libertà assoluta, non vale uno yacht di 14 metri, non vale lo stipendio di un parlamentare. Sì, però scusa, ci avevamo detti che il lecchinaggio è brutto, mi stai facendo un danno in questo momento, perché dovrei o segarti o prendere le distanze da quello che dici. Cerca di rettificare. Non è un pregio nei tuoi confronti, è chiunque stia un'ora alla radio per raccontare ciò che vuole. È degno di invidia, sì. Ma questo privilegio chi l'hanno? I folli, i potenti, i ricchi? A quale categoria umana potresti paragonare il privilegio di poter avere uno spazio di libertà? Perché guarda, non è soltanto il mio spazio, anche di te che parli in questo momento, di chi ogni giorno aggiunge il suo pensiero, la sua esperienza al mio. Io sono una sorta di vigile che regola il traffico tra le follie, i desideri, le rabbie, i rancori, le meraviglie di chi mi ascolta. Sì, ma la figura magari che mi viene più in mente è quella del decadente moderno, ecco, perché raccoglie tutto ciò che la società lascia per la strada, ciò che si vede fuori dalle finestre, l'uomo in canottiera che rimetteva le tendine alla finestra. Ecco, secondo me, ecco, sì, chiunque, guarda, se ti descrivessi i vasi dei gerani che ha sul suo balcone questo signore in canottiera, sono dei vasi zebrati, non ho mai visto nulla di più orribile, allo stesso tempo che catturi la mia intenzione di voler capire cosa c'è al di là di questa tendina. Non so se si potrebbe nascondere una casa di appuntamenti clandestina, un ospizio clandestino, un luogo in cui le persone sono cementate dentro da decenni, non escono mai di casa. Ci sono delle tendine belle ricamate, adesso vedi, sta facendo cucù dietro la tendina, il signore si sente chiamato in primo piano. E descrivo questi vasetti zebrati, che non c'entra assolutamente nulla. Sto in una piazzetta con dei palazzetti di un certo pregio, alcuni li daterei più o meno inizi Novecento, ben tenuti, alcuni più, alcuni meno, con una birreria, con il negozio delle mutande di Giusi qui al mio fianco, una grandissima farmacia, che immagino piena di cinti erniari, di pannoloni per adulti incontinenti, di pillole per dormire, di analgesici. È la grande farmacia, è il punctum di questa piazza. Immagino le transumanze quotidiane dei tedeschi che escono dalla sauna, dai massaggi nei loro alberghetti, fanno la passeggiottina sul lungolago, poi fanno una puntatina in farmacia, si bevono una birretta e poi alle 8:30 di sera sono tutti a dormire. Guido da Bergamo. Scusate, ho il sole che mi batte proprio sul computer e non riesco a leggere bene. Guido da Bergamo, sì. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare un intervento molto breve e non autocelebrativo. Si limiti a un intervento alla prostata, qualcosa di veloce. magari, meno doloroso. Ha esperienza di questa cosa, no? C'è Nicoletta Carbone dopo di me che può illuminarla. Il suo argomento. No, per fortuna. Sa mai, verrà il momento, prego. Allora, d'altronde, anche questo fa parte della crudezza e della normalità della vita, no? Sì, non è un passaggio obbligato. In effetti però. La mia chiamata era proprio a questo proposito, vale a dire, io sono un ascoltatore della radio da lungo tempo, e ho passato un po'... Terminale, quindi, un ascoltatore terminale della radio. No, non terminale, anzi, devo dire... Ha detto lei. Sempre iniziale, perché comunque il grande vantaggio che ha la radio è quello di poterti dare ogni giorno qualcosa di nuovo, soprattutto con trasmissioni. Ma mica tutte le radio, certe radio da 30 anni fanno la stessa roba. Ogni tanto c'è qualche pillola. Devo dire, ma non vuole essere un incensamento a lei o alla sua trasmissione. No, non lo faccio, se no la seguo. A Radio 24. Però spesso e volentieri, sempre più raramente ultimamente, ma trovo trasmissioni come la sua che sono, nella sua crudezza, vorrei definirle un po' il neorealismo della radio, no? Così impara, io l'avevo avvertito. Elisa da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo un attimo parlare del suo dissenso che lei accetta, che lei ama, che lei appunto... Beh, è un atto pratica. Di profondo narcisismo, l'ha capito. Ecco, questo. Pratica. Io penso che lei abbia... si affetta un po' da una geometria variabile, nel senso che lei non ama assolutamente il dissenso, e io diciamo una volta sono stata un po' una sua vittima durante un piccolo intervento, durante una sua trasmissione qualche mese fa. Beh, se si ripresenta, si vede che le è piaciuto, se no non sarebbe qui a parlare con me. Se si ripresenta a parlare con me, sì, ma no, ma ci manca, se mi permette una piccola, non dico critica per l'amor del cielo, però un piccolo giudizio. E io ho notato questo, che lei è molto dogmatico ed è affetto da grande soverchieria e animosità, è molto intransigente, perché durante quel piccolo intervento mio, lei ha non lasciandomi spazio nel controbattere o nel replicare, forse meglio come sostantivo, lei ha stravolto completamente il senso del mio intervento. Ma questo è il mio mestiere, scusi, se io fossi un raccontatore realistico di quello che vedo, farei il giornale radio come fanno egregiamente i miei colleghi. Io devo stravolgere la realtà, sennò, altrimenti qual è il senso della mia mediazione del reale? Mentre parlava lei sentiva la campana morto, è un turista in meno che la sera frequenterà la farmacia di Riva del Garda. Prego, continui, non la voglio stravolgere. Volevo dire questo, che dopo a volte proprio sembra che lei si sente una persona felice, le prende come un fumus titanico e la devi distruggere. Non capisco come mai. Cioè, io non la sento felice, signora, la sento molto arrabbiata, anzi, perché no, io sono sereno. No, È passata una serata bellissima. Non con me adesso. Ciucco riva al lago. Che cosa potrei voler più dalla vita? No, volevo dire un'altra cosa, forse me ne sono spiegata male. Volevo dire che a volte quando una persona le annuncia la propria felicità, la propria soddisfazione, non parlavo di me, che anche se sono una persona soddisfatta e contenta, lei sembra quasi presa da questo fumus così che le dà un po' di fastidio. Ecco, volevo capire come mai, è un attacco di invidia che nella quale sì, può io essere. Nella quale può essere moltissimo, perché è uno dei peccati maggiori, eh. No, è delle delizie maggiori essere invidiosi degli altri, almeno uno un punto d'arrivo, soverchiare la persona di cui sei invidioso nell'attimo di felicità che non ci appartiene. Quindi io sono invidioso della sua mesta felicità e quindi vorrei anch'io essere come lei, felice e soddisfatto. Melog 2.0. I quarantenni possono essere o separati con figli o senza figli. In tal caso saranno al massimo disponibili a una relazione orizzontale con noi donne, oppure sono sposati, idem come sopra, quindi soprattutto relazioni orizzontali senza impegno, e quelli liberi di solito sono pieni di problemi. Quando gli si mette di fronte i problemi quotidiani, quelli che noi donne affrontiamo tutti i giorni, non sanno veramente da che parte cominciare. La vita può cominciare a 50 anni cambiandola totalmente. Nicoletti, trasformarsi e diventare anche più trasgressiva. Figli cresciuti, nipoti cresciuti, ok, ciao. Guardi, le dirò che la depilazione è una rottura di scatole tremenda, per cui è sostanzialmente una cosa che ci viene imposta come una raccolta differenziata, e veramente vorremmo andare a quel paese con gli uomini che si permettono di dire che gli fanno schifo, gli danno fastidio, le donne poco depilate, cioè, che vanno a pascolare, perché cioè, cosa vogliono? È una rarefazione, comunque un capriccio dell'umanità moderna. ...800-24-0024, la piazza delle Erbe di Riva del Garda, a Radio Incontri. Mello questa mattina fa una sorta di, sì, lievemente autocelebrativa riflessione sulla radio. Sulla radio come strumento di contatto, come grande shock individuale tra una persona che parla a un microfono, necessariamente stamattina devo parlare di me stesso, non per compiacere il narcisismo di cui vengo spesso accusato con mia soddisfazione, ma semplicemente perché è esattamente così. Non esisterebbe radio se non ci fosse una persona che si mette in gioco totalmente dalla parte di uno dei due punti di incontro, e non ci fossero persone che, oltre ad ascoltare semplicemente, a farsi accompagnare, a fare anche altre cose con l'apparecchio acceso, che è una delle cose che più dà fastidio a noi, che altri possono fare altre cose mentre ci ascoltano, ma ahimè fa parte della fattispecie del nostro strumento di comunicazione, che diano un loro contributo concreto e reale. Io quando iniziai a fare radio per questo editore, per Radio 24, mi fu assegnato un obiettivo. L'obiettivo era quello di lavorare sul pubblico femminile, perché in certe fasce ci tenevano a capire, comprendere, vedere, osservare e se possibile incrementare il passaggio di pubblico femminile, e quindi su questo mi sono concentrato, con tutti i rischi connessi di passare per un maniaco, per un compulsivo, per un fissato, per un esperto di sessologia, come mi accusò un ascoltatore giorni fa arrabbiatissimo con me. Ho una forma abbastanza disinibita di parlare della relazione, del rapporto, della femminilità, questo lo ammetto senz'altro, ma devo dire che mi ha molto affascinato questo obiettivo che mi ero posto, che mi avevano chiesto appunto di perseguire, e mi sono molto aperto al pubblico femminile. I risultati ci sono stati, il risultato è questo: è diventato un luogo in cui le donne hanno avuto una grande libertà, leggerezza e simpatico senso di trasgressione per esprimere se stessi, se stesse, senza filtri, senza obblighi, senza imposizioni, senza necessità di mantenere ruoli. Abbiamo fatto fantastiche trasmissioni in cui il pubblico femminile si è espressa sugli uomini che li circondano, sui non uomini che li circondano, su ciò che loro amerebbero che fosse loro fatto, che è culminato pochi giorni fa con la nostra trasmissione sulla tecnica del sollievo nel sollevar donne, che è quella che oggi più mi appassiona, che sto mettendo in atto. Nelle pause di questa trasmissione sollevo donne per sollevare me stesso, sollevo donne per dare senso e leggerezza a un rapporto che non sia soltanto basato su quelle macchine di comunicazione, su quegli strumenti, su quelle fantastiche, ma ahimè limitate, interfacce fra esseri umani, di cui la radio è probabilmente la più antica. Non esiste un social network, per usare un termine molto percorso, così efficace come quello della radio. Rendetevi conto che in realtà il rimbalzare di un'idea, di un pensiero, di una follia, di una riflessione da orecchio a orecchio, da apparecchio a apparecchio, da sistema di ricezione a sistema di ricezione, fa sì che in realtà siate tutti contaminati dalle idiozie che ogni giorno tendo a celebrare e a dignificare: la motosega che interrompe gli ascoltatori, il sollevare le donne e tantissime altre cose. Io dico che l'uomo deve avere un minimo sindacabile, anzi un massimo sindacabile, le donne non vogliono altro. Sembra facile che tutti noi maschietti stiamo qui con la nostra verga in mano in attesa di qualche orifizio da riempire, ma così non è, te lo posso assicurare. Il discorso verte più che altro sul fatto di avere anche noi un minimo sindacale, che non può essere solamente dato da tin e culi, ma anche da un certo tipo di personalità. Vogliamo anche noi il nostro minimo sindacabile. Il problema è che loro sono abituati a dare qualcosa, come se questa cosa è qualcosa che non gli appartiene, perché questa cosa qua è sempre stata degli uomini. Bisogna che vadano oltre il sesso. Se una persona è valida anche dopo la notte di sesso. Anche una donna può essere attiva nella parte sessuale, non sempre pensare di concedersi. Alla fine le donne, la cosa migliore è se vanno cercando soltanto chi fa i loro comodi. Questo appunto nelle parole di passo ricorrenti del nostro programma, e quelle che più mi fanno male, perché solo che segnano indelebili passi indietro nella mia considerazione aziendale, c'era proprio questo: una signora che pose il problema del minimo sindacale per l'intima d'azione, che era un tema in realtà molto alto, immediatamente travisato per i nostri ascoltatori, è diventato il minimo sindacabile, che non c'entra assolutamente niente. Questa signora sollevò il problema: io non ho nulla in contrario a concedere l'intima d'azione anche a una persona che conosco appena o che incontro per caso, però c'è un minimo sindacale che voglio in cambio, un po' di considerazione, un minimo di tenerezza, il fatto che un'ora dopo siamo incontrati, se io mando un messaggio mi risponda, almeno una sorta di strascico emotivo che dia senso alla mia esistenza, sia senso anche a quell'atto che anche nella leggerezza, nella futilità e nella reciproca piacevolezza ha avuto per me comunque un senso. Rosalba da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo invece soltanto dirle che l'ascolto perché gradisco il tono della sua voce. È un tono tranquillo, calmo, che serve a rilassarmi mentre l'ascolto dal computer. Luigi da Bergamo, buongiorno, vediamo se lei si salva. Buongiorno Nicoletti, siamo quasi coetanei. Io sono quello che ha chiamato un anno fa circa, sacrificando metà della mia pensione per una visita al buon neuropsichiatra. Oggi, ascoltandoti, ho visto che sei migliorato. Ma una visita da sola non fa niente, non le serve a nulla. Un buon psicologo. Però serve soltanto a mettere nell'agenda i prossimi appuntamenti, quindi ha buttato via i suoi soldi. Bravissimo, però una curiosità ce l'ho che da sempre. Come mai quando vai in televisione sei muto come un pesce e quando sei in radio ti scateni tantissimo? Perché in radio ho la motosega a disposizione, in televisione ce l'ha qualcun altro. Ferdinando da Milano. Buongiorno. Ferdinando, anzi, scusa. Nicoletti, buongiorno. Sì. Io non conosco la piazza dove sei, ma sono un cultore di piazze. E il mio altare principale della piazza è la pasticceria, il caffè, dove io sento quei profumi di pasticcini e paste e poi leggo il giornale seduto al tavolo del caffè. Vabbè, allora la troveranno un giorno schiattata dal colesterolo, ma felice, con il sorriso sulle labbra, con ancora il suo caffè. Non ne mangio tanto e non ne bevo tanto, però mi piace, capito? Va bene, ci ha espresso il suo piacere, mi sembra la maniera migliore per chiudere questa trasmissione, da una piazza che si è fantasticamente riempita di persone. C'è anche un signore in canottiera che mi guarda e sorride. Perché? Perché Elena Ligios ha portato i gadget alla radio, quindi hanno la busta con i cappellini, con le magliette e con questa sorta di meraviglioso mercimonio. E ci salutiamo e diamo la linea ai colleghi che ci seguiranno in questo pubblico che ho finora con fatica scaldato. Ringrazio Paolo Corleoni per la regia e Anita Panizza per la redazione. Ringrazio la Piazza Radio Incontri, mi ha dato questa fantastica occasione di una mattinata di felicità. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Dialog 2.0.